Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di un libro che è sì un libro di economia, ma è anche un libro di letteratura, è anche un libro di cultura e soprattutto un libro di management. Ne parliamo con Maurizio De Castri. Buonasera, professor De Castri. Buonasera a lei e a tutti. E ne parliamo con Zetan Anton Lilov. Buonasera, dottor Lilov. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Maurizio De Castri, professore ordinario di organizzazione aziendale presso l'Università di Roma Tor Vergata, mentre Zetan Anton Lilov è funzionario della direzione personale e organizzazione di Vittoria Assicurazioni. Il libro di cui parliamo, editore Guerini e Associati, si intitola Leadership, dalla letteratura alla teoria manageriale. Cioè è un libro che intreccia la letteratura classica, da Dante Alighieri, Shakespeare, Milton, fino agli autori più moderni, con la teoria manageriale, appunto. Allora, come mai questa idea, professor De Castri? L'idea è nata da un percorso di studio, devo dire, antico, di molti anni fa. Il libro è frutto di anni e anni di lavoro, di intenso lavoro, e nasce da una delle ipotesi più credibili nel campo della leadership, ossia il fatto che leader si nasce e non si impara. Il leader deve essere leader dentro, fin dalla nascita, negli occhi, nell'anima, nei neuroni, e dovendo imparare nel tempo a utilizzare le proprie attitudini interiori, l'unico modo per farlo probabilmente è leggere di storie di altri leader e specchiarsi in queste storie. Quindi leadership è innanzitutto cultura? La leadership è una funzione culturale, nel senso che il leader plasma, costruisce, modifica, distrugge una cultura, ma è anche portato, è anche esito, frutto della cultura. La cultura esprime leadership. E allora, dottor Lilov, si può dire che i manager attuali, i leader attuali hanno bisogno di più cultura? I leader e i manager attuali hanno bisogno di cultura perché attraverso la cultura si specchiano in quello che i grandi scrittori, poeti e romanzieri di ogni tempo hanno già osservato per loro, e quindi il romanziere e il poeta può essere gli occhi del leader e del manager di oggi e anche di domani. Quindi questo libro è una guida ragionata con molti esempi, anche molti, molti brani, può essere preso anche come antologia letteraria, dei tanti aspetti che deve avere un leader, dei tanti aspetti che anche da un punto di vista umano un leader deve avere. Quindi da questo profilo è stato complicato mettere insieme questi esempi? In realtà è stato imbarazzante perché c'erano talmente tanti esempi che abbiamo dovuto necessariamente fare una cernita e ci siamo fatti guidare dalle nostre conoscenze, ma a volte anche così dall'intuito e un po' da quel grande sottovalutato maestro che è il caso, perché a volte si tratta soltanto di avere l'idea di come la leadership aziendale, descritta attraverso pagine di letteratura tecnica, può essere accomunata alla leadership che i grandi scrittori hanno osservato attraverso la loro vita e la loro capacità di visione. E quindi possiamo vedere che, per esempio, chi descrive la leadership in azienda, quindi i grandi teorici della letteratura aziendale, quindi tecnica, hanno osservato cose simili a quelle che ad esempio Milton può aver osservato, oppure Manzoni nei Promessi Sposi. Ecco, ma professor De Castri, questo libro nasce un po' quasi come opposizione a una certa logica di insegnamento del management, diciamo così, americana, molto molto teorica, molto fondata sulla pratica, molto fondata sulle cose concrete. Forse il ritrovare delle radici culturali è un po' non in antitesi, ma sicuramente complementare a questa prospettiva. Ma io sono un sostenitore fortissimo della interdisciplinarità. Si impara a essere manager e leader leggendo di tutto, primariamente la propria cultura, le proprie origini culturali, la letteratura d'arte, che è fondamentale. Anche negli Stati Uniti, anche all'estero, iniziano a capire che la storia, le radici possono essere rilevanti per i corsi di business, per costruire un manager, per cui lì si inizia a curiosare anche nelle cose europee. La cultura europea ovviamente è più forte e più solida, ed è proprio il periodo in cui magari noi italiani cerchiamo di diventare più tecnocrati e abbandonare il liceo classico, il greco e quant'altro. Ed è un grande peccato, perché noi siamo sempre in controtendenza, ma forse hanno ragione loro ad avvicinarsi finalmente alla cultura. Ecco, una cultura di leader è anche, lo dite chiaramente, una cultura del cambiamento, della capacità di rompere gli schemi, di andare oltre, di cercare delle soluzioni nuove ai problemi nuovi. Ecco, in questo senso la letteratura potrebbe sembrare qualcosa invece di più consolidato, di più statico. La letteratura nel suo complesso sì, ma se va a leggere ciascuno degli autori che vengono citati nei brani che abbiamo scelto, il leader della letteratura d'arte è sempre un leader con una fortissima personalità, è sempre qualcuno che pervade e colora l'atmosfera che vive, quindi è sicuramente uno che rompe gli schemi e che non dà soluzione di continuità alla propria vita e alla vita degli altri. Ecco, voi mettete in chiaro, per esempio, che c'è una differenza tra manager e leader, ma un leader è anche un manager e un manager deve essere anche un leader. Non sempre la cosa è così bionivoca e così chiara come lei la racconta. Se la leadership è quella capacità, quell'attitudine di trascinare le persone in maniera emotiva, in maniera irrazionale, in maniera non tecnocrate, ecco che il leader è qualcosa di diverso dal manager. E in questo senso leader, come dicevo all'inizio, si nasce e si può solo sviluppare le proprie attitudini nel tempo. Non si va ai corsi di formazione per imparare a essere leader se non lo si è già dentro. Ecco, ma dottor Love, come si capisce se uno è nato leader, se uno ha in sé la possibilità di sviluppare queste competenze? In fondo tutti dovremmo avere un minimo di talenti e avere la capacità di diventare leader. Beh, ciò che distingue i leader dai manager è, come dice Zalesnik, che è uno studioso di leadership, che i leader sono rinati, cioè nati due volte, dopo esperienze di forte separazione e di estraniazione dal loro ambiente, e dopo aver capitalizzato ciò che hanno esperito dedicandosi a comprendere se stessi per poi ritrovarsi con un senso di identità creato e non ereditato. Ad esempio, nel Fratelli Karamazov c'è un excursus che è intitolato Il Grande Inquisitore, e in quel momento, quando il Grande Inquisitore si fronteggia con Gesù che è tornato sulla terra, il lettore ha la possibilità di vedere che mentre Gesù è una figura per definizione nata due volte perché rinasce, il Grande Inquisitore invece gli dice: all'inizio anch'io ho vissuto nel deserto e volevo essere nella folta schiera dei tuoi eletti, ma poi mi sono ripreso, non ho voluto servire un'idea pazza, sono tornato indietro, mi sono unito alla schiera di coloro che hanno corretto la tua opera. Questo tornato indietro ci fa capire che il Grande Inquisitore non è nato due volte, ma ha fatto retromarcia, e quindi non è come Gesù, che invece è rinato. Quindi ha imparato in fondo dai propri errori, riconoscere gli errori è uno degli elementi, direi, fondamentali anche del management. E proprio a proposito delle caratteristiche del management, c'è un capitolo che è molto schematico, in cui ci sono addirittura 57 caratteristiche del management, che vanno dal controllo delle fonti di potere, ai rapporti col vicario, alla semplicità, alla capacità di osservazione, in cui ogni caratteristica è associata a dei consigli letterari. Professor De Castri, è possibile quindi anche spezzettare il management e la leadership in tanti particolari e ognuno di questi ritrovare degli aspetti di umanità in fondo nella letteratura? Ma la leadership è anche un arcobaleno di colori, è un mosaico, un puzzle di tanti tasselli, veramente di tanti colori, sapori e luci. Abbiamo provato a essere sintetici, se siamo riusciti abbiamo scritto quella tabella che rappresenta le componenti della leadership che possiamo ritrovare nei vari brani poi citati. La leadership certamente non è una ricetta, non è un modo unico di condurre le persone, le aziende, le avventure. Lì dentro, in quella tabella, ciascuno può ritrovare dei pezzi di se stesso, certo, ritrovarli e andarsela a leggere. Facciamo un esempio: forza, decisione ed energia vengono associati a Gesù, vengono associati all'innominato, vengono associati a Satana nel Paradiso Perduto di Milton, a Ulisse nella Divina Commedia di Dante. Cioè... Ecco, poi non è detto che il leader vero o capace debba avere per forza quella caratteristica, magari ne ha 10 altre che trova in altri autori, in altri brani, e ha costruito il suo puzzle di leadership, il suo mosaico, in un altro modo. Che cosa manca nei leader attuali, direi leader aziendali, parliamo di management, in Italia adesso, secondo lei, professor De Castri? Ma secondo me manca una cosa, dal mio punto di vista, che è il senso del tempo. Oggi la leadership si gioca sulla velocità, sulle corse, sul fare le cose in fretta, sul fare le cose subito. I leader attuali sono un po' adolescenti, un po' bambini, hanno sempre voglia di ottenere tutto subito, non hanno la pazienza di investire, seminare per poi arrivare a raccogliere nel tempo. Questa è una cosa che secondo me è una grandissima debolezza di questo paese. E il tempo è un po' un tiranno, lo dimostra anche il tempo di questa trasmissione che sta scadendo. Un'ultima parola, dottor Lilov, un ultimo piccolo consiglio di lettura. Come leggere questo libro? Beh, questo libro può essere letto, diciamo, scegliendo a caso un capitolo, perché i capitoli sono assolutamente indipendenti, e quindi facendosi guidare dai propri interessi. può essere letto anche come un'antologia, perché i brani sono veramente molto, molto lunghi e molto ampi, e quindi consentono di entrare nel personaggio che viene riportato e poi leggere a parte i commenti che abbiamo cercato di fare per dare una chiave di lettura che naturalmente è soltanto una delle molte possibili. Grazie, grazie. Infatti è un libro di 360 pagine, un libro che si legge tranquillamente un po' per volta, anche un po' a caso all'interno di queste pagine, ma ha letto tutto, sicuramente dà qualcosa in più e qualche elemento per essere appunto degli uomini fino in fondo anche esercitando la leadership. Grazie a Maurizio De Castri, grazie a Svetlana Antonlilov, che sono i due autori del libro Leadership, edito da Guerini Associati. Sono oltre 360 pagine per un costo di 28 euro. Leggetelo e fatelo leggere. Così come ringrazio Roberto Scartritti in regia, Luca Cremonese e Stefania Tagliaferri in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona serata a tutti.